è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:36 minuti, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta, come sapete, fino alle 20:45, per commentare insieme i fatti del giorno. Messaggi SMS al 349-238-6666, lazanzara@radio24.it, se volete scriverci le vostre mail. Andiamo subito a sentire i titoli dei telegiornali appena andati in onda. TG2. 50 morti nella tragedia negli Stati Uniti, un aereo si schianta su una casa nello stato di New York. Fra le vittime una donna che aveva perso il marito negli attacchi dell'11 settembre. Scende dello 0,9 il PIL in Italia, tutta l'Europa in rosso. Berlusconi, crisi preoccupante, aiuti anche per i precari. Sciopero e corteo della CGIL contro le scelte del governo. Muore sbranato dal cane un bambino di 10 mesi a Genzano, alle porte di Roma, aggredito sul passeggino nel giardino di casa da un mastino napoletano, ferita la nonna. Prende la parola Amanda al processo per il delitto di Meredith. Sono innocente, ho fiducia, tutto si sistemerà. In aula anche Raffaele, sentite le amiche inglesi della ragazza uccisa. Due gemelli in Veneto si scambiano il posto nelle rispettive classi per un'interrogazione, ma la professoressa scopre l'inganno e li punisce. Sei in condotta e sospensione di una settimana. Beh, certo, non mi sarei aspettato che la vicenda di Paolo Bonolis, evocata ieri in una trasmissione televisiva con i ragazzi, provocasse tante polemiche, addirittura interrogazioni parlamentari. Dopo sentiremo qualche deputato protagonista adesso di una nuova crociata contro Bonolis. Questa mattina sul Corriere della Sera il principe dei critici televisivi, Aldo Grasso, scrive: quel milione di euro a Bonolis, il servizio pubblico è un modello virtuoso, operai e impiegati in cassa integrazione, che strano paese all'Italia. Aziende che collassano da un giorno all'altro, il prodotto interno ai minimi storici, ma Paolo Bonolis prende un milione di euro per condurre il festival. Qualcosa non torna. L'amministrazione Obama ha fissato un tetto massimo di $500,000 ai salari dei grandi dirigenti delle aziende destinatarie dei fondi di salvataggio. Eppure Paolo Bonolis, presentatore televisivo, e Roberto Benigni, lettore televisivo di Dante, prendono dal Festival di Sanremo una barcata di soldi. Andiamo a sentire Studio Aperto. Milano come Guidonia, due fidanzate aggrediti in auto, momenti di terrore, il finestrino spaccato, ma lui reagisce e riesce a fermare uno dei banditi. È un rumeno di 21 anni, denunciato più volte per furto, accusato di violenza sessuale di gruppo e sequestro di persona. Era appena uscito dalla comunità. Un bimbo di 10 mesi è morto, sbranato dal suo cane a Genzano, vicino Roma. Il mastino napoletano ha strappato il piccolo dalla carrozzina, inutile il tentativo della nonna di salvare il nipotino. Ultimi appelli per il voto delle regionali in Sardegna. Berlusconi a Cagliari al fianco del candidato del centrodestra Ugo Cappellacci, Veltroni con Soru per i comizi conclusivi. Urne aperte domenica e lunedì. Processo di Perugia, le amiche inglesi bene, di Metz bene, raccontano... questi i titoli principali di Studio Aperto. Ancora continuiamo con Aldo Grasso, e dire che il servizio pubblico televisivo, proprio perché si rivolge alla stragrande maggioranza delle famiglie, proprio perché ha un audience la cui consistenza principale è rappresentata dalle fasce meno abbienti della popolazione, avrebbe il dovere di porsi come modello virtuoso. Poco vale la giustificazione che i soldi per Bonolis e Benigni li tirano fuori gli sponsor. No, li tiriamo fuori noi, prima con il canone e poi al supermarket. Non passa giorno che i nostri governanti non ci esortino al sacrificio per l'Italia, per uscire dalla crisi, per risanare i conti pubblici. Il presidente Berlusconi ha affermato recentemente che tutti quanti in coscienza dobbiamo dare il nostro piccolo contributo affinché questa crisi non sia così drammatica. Ha ragione, se però in coscienza il contributo cominciasse a venire da una manifestazione musicale come Sanremo, avrebbe anche un valore simbolico, non moralistico. Bene, questo Aldo Grasso che stronca dunque questo milione di euro a Bonolis, lo stesso Bonolis lo ha rivelato, ma insomma sicuramente sarebbe uscito fuori proprio ieri. Risentiamo. Quanto guadagna per Sanremo? Per Sanremo guadagno 1 milione di euro. Poco, eh? No, non è né poco né tanto, è giusto, perché ti occupi di una cosa che renderà parecchio, mi auguro, che richiede più di un anno di lavoro circa, che non è solamente condurre ma è fare la direzione artistica, quindi preparare tutto, e perché il mercato è fatto così. e perché il mercato è fatto così. 800 24 00 24. Devo dire che, nonostante ritengo assolutamente fondate, degnissime e rispettabilissime le idee di chi si oppone a questo milione di euro a Bonolis, avete sentito quelle di Aldo Grasso, di chi pensa che in una crisi come questa, in una situazione come questa, sia immorale, anzi no, immorale, sia comunque inopportuno per il servizio pubblico, penso che in fondo alle critiche sul milione di euro a Bonolis ci sia un pizzico di invidia. Lo penso davvero. La stessa invidia che ha ammesso in maniera spontanea pochi mesi fa nei confronti di Bonolis Vittorio Sgarbi. La mia caratteristica principale è l'invidia. Sgarbi. No, l'invidia, perché l'invidia è quello che si ammette di meno. In realtà sì, l'invidia è la consapevolezza dei tuoi limiti rispetto ad altri. Io quando vedo proprio Bonolis, io invidio Bonolis. Senti questa, vedi dove arriva questa? Eh? No, perché con una zucca vai vuota come quella di Bonolis, guadagnare 20 milioni di euro all'anno e io a fare il coglione a Salemi, c'è qualcosa che non funziona. Quindi lo guardo, lo invidio, lo odio, io lo strangoletto, vado alla Berlusconi e dico: ma devi dare 20 milioni di euro a quel pirla in cabinetto? Così. A modo suo, naturalmente, ma viva la faccia di ammettere l'invidia per qualcuno che ritieni non essere bravo o comunque di non essere all'altezza e che guadagna 20 milioni di euro, almeno così dice, non lo sapevo, Sgarbi sul reddito di Bonolis. Poi addirittura Sgarbi, in un'altra trasmissione di recente, Niente di personale, con Antonello Piroso all'inizio di febbraio, ha detto: io odio Bonolis, ripete questa cosa dei 20 milioni di euro l'anno. E poi io odio Bonolis. Cioè, non vorrei che lei si sopravvalutasse, comunque non fa niente, va bene. Io quando vedo Bonolis lo vedo coperto, anche perché poi io... Ma perché? Che le ha fatto? Perché guadagna 20 milioni di euro all'anno. Però quanti ne fa incassare alla Molto gente? Meno di me. Ma io che ne sa? Ma lo so benissimo, vuoi confrontare me con Bonolis? No, ma non voglio fare confronto, ma se figure io. Non se ne parla neanche, quello è soporifero, fa addormentare. Ma gli hanno dato pure il festival. Ma hanno fatto male, fatto malissimo. Malissimo. Comunque, fanno così. Ah, tra l'altro... Bene, bene, c'è discussione intorno al milione di euro a Bonolis, non c'è dubbio. Sempre di televisione parliamo, perché ieri ad Anno Zero il vignettista Vauro insieme a Santoro alla fine della trasmissione se la sono presa con Gasparri. Sentiamo in che modo. Anche Gasparri chiede un minuto di silenzio, così si sentono meglio le stronzate che dico. Ha corretto, sempre leggerissimo. Ha detto che se si è offeso qualcuno, sì. Anch'io. Non ha corretto il senso, ha corretto. Se qualcuno si è offeso, lui chiede scusa. Però c'era silenzio. Non voleva offendere. Hanno sentito quando ha detto anche quest'altra stronzata? Sì, beh, sono contento. Vabbè. La risposta di Gasparri: Santoro e Bauro, due volgari sciacalli, vomitano insulti con le tasche piene di soldi dei cittadini. Santoro e il presunto comico Bauro sono due volgari sciacalli che vomitano insulti con le tasche piene di soldi dei cittadini. Gente così offende la verità, alimenta odio e merita solo disprezzo totale della gente per bene. L'insulto è la loro regola, colpa di gestori della RAI che per fortuna stanno per essere cacciati come meritano. A proposito sempre di Santoro, siccome Mentana si è messo dalla parte, diciamo, dei virtuosi che combattono il presunto dittatore televisivo e italiano e soprattutto si è messo contro Mediaset, naturalmente diventa una bandiera anche per Santoro. Sentite in che modo. Dico, perlomeno possiamo discutere del perché non riusciamo a firmare un contratto noi giornalisti, possiamo discutere del fatto che presto Rai e Mediaset avranno una comune piattaforma dalla quale irradiare i loro programmi. È una cosa positiva questa, è una cosa negativa questa? Ne vogliamo perlomeno discutere? No, questi sono fatti che noi giornalisti non ci devono riguardare, queste sono scelte politiche, sono scelte che devono fare i partiti e poi tu non disturbare. Allora, caro Mentana, io che posso fare? In una situazione così ti posso dire, ed io a nome anche della mia redazione, senza se e senza ma, che ti siamo solidali, e non soltanto per una questione di stima o di amicizia, ma perché, secondo il mio punto di vista, tu hai messo ancora in rilievo il fatto che in Italia un vero mercato televisivo non c'è. Perché dove c'è un vero mercato televisivo, per esempio negli Stati Uniti, i network si contendono la palma del migliore su tutto, e se la contendono non solo sulla pubblicità, sugli ascolti, ma anche sulla credibilità, anche sull'informazione. L'onorevole Luciano Sardelli, MPA, Movimento per le Autonomie, fa parte della Commissione di Vigilanza RAI. Buonasera. Buonasera a voi. Sardelli, anche lei incrociata contro Bonolis, anche lei un'interrogazione parlamentare. È così importante la vicenda Bonolis? Ma la vicenda Bonolis è lo specchio, la cartina al tornasole di un sistema radiotelevisivo pubblico che è dissennato, cioè utilizza le risorse dei cittadini, il canone e le risorse della pubblicità in maniera assolutamente non corretta. Cos'è che non va nel milione di euro a Bonolis? Ma, scusi, una bambina di 10 anni ha fatto la domanda quanto guadagna, ha avuto l'impudenza anche di rispondere, di dire 1 milione di euro, dicendo che c'è il mercato che gli dà questo valore. Allora, io non capisco il mercato. Non penso che per queste serate era richiesto dalla CNN o da qualche TV americana o inglese. Penso che se non andava a Sanremo forse stava a prendersi un caffè con l'amico suo, cioè con quello con cui lavora solitamente. Quindi, no, però mi scusi, al di là delle battute, Sardelli, il punto è molto chiaro. Perché stupirsi del fatto che se la Rai vuole Bonolis lo deve pagare un sacco di soldi? Tutti sappiamo gli stipendi di Bonolis, Mediaset, prima la Rai, sono stipendi molto alti. Se la Rai decide di prendere Bonolis per il Festival di Sanremo, è cambiato il mondo, cioè guardi, cioè il mondo è cambiato, cioè, forse qualcuno non l'ha capito, ce ne renderemo conto fra qualche mese, ancora peggio. La Rai chiuderà il 2009 con qualche centinaia di milioni di euro di deficit, cioè perché gli introiti della Fipra sono ridotti del 30-40%. Anche i calciatori, le squadre di calcio hanno capito che il mondo è cambiato, cioè alla Rai questo non l'hanno capito, cioè, e non è giusto, cioè, che questo avvenga sulle spalle del contribuente per un servizio pubblico che non è servizio pubblico, cioè, è per un lavoro che si poteva dare a qualche ottimo giovane nuovo presentatore, forse anche con più freschezza e qualche novità in più. Dunque lei è totalmente d'accordo con quello che scrive questa mattina Aldo Grasso sul Corriere della Sera? È d'accordo la bambina di 10 anni, ma la sa, 1 milione di euro sono 40 anni di lavoro di un operaio, cioè, uno dice ma i calciatori, ma di che stiamo a parlare? Cioè, i personaggi pubblici e la RAI devono dare anche un minimo, visto che prendono i soldi dai cittadini con il canone finché li continuano a prendere, anche un minimo di rigore morale, devono avere anche dare un esempio, avere una contezza. Però mi scusi onorevole Sardelli, io lo capisco, questo discorso fa anche molta presa, anche molto popolare, però si potrebbe girare anche ai deputati, ai senatori, perché non si riescono ad abbassare i costi della politica, cioè si va avanti così di demagogia in demagogia, guardi, o no? Cioè, possiamo pure parlare di questo, dei costi politici. Il problema dei costi politica è se uno i soldi li prende e se li mette in tasca sono tantissimi, se uno i soldi li prende come un partito come il mio, cioè che è piccolissimo, e fa politica in 15 anni, fa 7-8 campagne elettorali. Lei fa politica, Bonolis fa un altro mestiere, lei prende i soldi come li prende Bonolis, nello stesso modo, come li prendo io, no, per carità. Un attimo, sto dicendo. Se uno i soldi li prende per avere segreterie, organizzazione sul territorio, per stare, dice la gente un altro fatto, ma comunque la politica si devono ridurre i costi, sono assolutamente d'accordo. Come no, deve essere anche chiaro, è un esempio che volevo fare, onorevole Sardelli, semplicemente per dire che mi sembra che in questa levata di scudi sulla vicenda Bonolis, non da parte sua che non conosce Bonolis e penso che non gliene freghi niente del fatto che Bonolis si intaschi 1 milione di euro, se non appunto per motivi più generali, ci sia però un pizzico di demagogia e anche un po' di invidia, o no? No, guardi, cioè, non è così, cioè, guardi, cioè, quello che bisogna far passare è che il servizio pubblico è un valore, cioè, che deve rispondere alle esigenze anche di cultura, di formazione dei giovani. Cioè, è chiaro, Bonolis che va da una ragazza che gli dice che guadagna 1 milione di euro per presentare 4 serate a Sanremo, la ragazza, cioè, si fa delle idee, cioè, è chiaro, che non mi pare che siano molto formative, cioè, è chiaro, per il futuro di questa ragazza. No, questo può darsi che nel servizio pubblico in particolare alla RAI ci siano forse stipendi troppo alti o compensi delle star troppo alte, ma non è certamente la prima volta. Adesso tutti quanti ci stupiamo perché Bonolis pubblicamente ammette di guadagnare 1 milione di euro. Cambiati. e non sono per quattro serate. Come si chiede alla politica, giustamente, di fare i suoi gol, come si chiede ai calciatori? I tempi sono cambiati, la RAI non può pagare questi stipendi e chiudere come chiuderà il 2009 con centinaia di milioni di euro in deficit, anche perché basta che si parlino con Mediaset, è finita la pacchia, finisce la pacchia per Bonolis e per tutti, perché si ridimensionano gli stipendi, tutti, come si stanno ridimensionando gli introiti delle TV commerciali e pubbliche per quanto riguarda la, ho capito, è ho una capito. Legge di mercato, è come, è assurdo che i grandi dirigenti di banche guadagnano 10-11 milioni di euro l'anno per portare le banche poi in questa condizione, questo vale per tutte le lobby, per tutte le carte, vale per tutti. Ma con questa interrogazione cosa volete fare? Volete cambiare le cose, cambiare il contratto, fare in modo che ci sia da questo momento in poi un tetto? Qual è l'intento di questa interrogazione in Parlamento? Avere chiarimenti? Chi ha firmato questo contratto? Che cosa? Questo fatto in Parlamento, innanzitutto la RAI deve cominciare a produrre di più lei e a dare meno in esternalizzazione, visto che ha 20-30 mila dipendenti. Vabbè, ma sul caso Bonolis come volete intervenire? Quindi deve cominciare a fare un piano economico, finanziario e anche progettuale di lavoro in linea con quelli che saranno gli introiti veri di quest'anno, che sono molto minori, altrimenti noi ci troveremo a parlare al gennaio del 2010 di un deficit della RAI di qualche centinaio di milioni di euro che qualcuno dovrà pagare, cioè il contribuente bue, Va bene, la ringrazio onorevole Sardelli, buona serata. 18:53, allora, Davide da Piacenza, buonasera Davide. Sì, buonasera. Senta, io non trovo per nulla scandaloso il milione di euro di Bonolis, per un semplice motivo, perché se a Bonolis viene dato un milione di euro vuol dire che gli introiti che Bonolis porterà alla RAI e al PSL saremo saranno sicuramente superiori. Io personalmente lavoro in azienda da anni, non ho mai trovato scandaloso che l'amministratore delegato delle aziende dove ho lavorato guadagnasse molto più di me se portava utile l'azienda. Trovo scandaloso invece che venga fatta un'interrogazione parlamentare, ho appena sentito il signore che parlava, e non sia mai stata fatta per i manager di Alitalia, per esempio. No, belle, sono state fatte anche per i manager dell'Italia. Guardi che comunque la cosa degli sponsor, degli introiti della pubblicità, secondo me non è un buon argomento da utilizzare. È pagato molto perché porta molti soldi. Io credo che il Festival di Sanremo incassa comunque, a prescindere dalla presenza di Bonolis. La ringrazio, Davide. Andiamo a Bergamo. Paolo. Buonasera. Dica. Io volevo fare una considerazione di questo tipo, al di là del fatto che è difficile sapere se effettivamente gli introiti saranno ripagati dagli sponsor per Bonolis o meno, però visto quello che diceva prima l'onorevole, parlava di cultura e di riferimenti, io conoscendo Bonolis dal suo percorso formativo e lavorativo sono ben contento di pagare un canone ad avere un professionista del suo livello che prende un milione di euro. Cioè lei non è scandalizzato come tantissime che ci stanno telefonando e che dicono la crisi economica, il ridimensionamento? Ma è un argomento, mi sembra fin troppo facile attaccarsi a c'è la crisi, un milione di euro è tanto per, ma innanzitutto non è, come ha detto l'onorevole, un lavoro di quattro giorni, perché preparare il Festival di Sanremo richiede molto più tempo, è un'assunzione di responsabilità perché ci si può anche giocare una carriera a Sanremo, come è già successo ad altri colleghi di Bonolis. Poi mi piacerebbe sapere per esempio quanto hanno preso altri colleghi gli anni prima, io credo che i compensi fossero anche più alti di un milione di euro per illustri colleghi che hanno fatto il festival e hanno ottenuto successi, sono stati anche dei flop. No, assolutamente non... Paolo, io le do ragione, anch'io non mi scandalizzo e penso che in tutte le critiche che ci sono su questo punto, su questi compensi, ripeto, ci sia un po' di acrimonia personale, soprattutto tra un grande critico televisivo e il clan di Bonolis, un po' di invidia, come qualcuno ha poi candidamente ammesso. Lo avete sentito. Andiamo subito a sentire i titoli del TG3. Metalmeccanici e lavoratori pubblici della CGIL oggi in piazza a Roma. Epifani, la mobilitazione continuerà. Crolla il PIL a fine 2008, Berlusconi è una crisi preoccupante, Veltroni il governo non fa abbastanza, tutto il paese si mobiliti. Napolitano sulla Costituzione, è una fortuna averla, dobbiamo tenercela stretta, sulla bioetica auspico una matura riflessione in Parlamento. Negli Stati Uniti a Buffalo un aereo precipita in picchiata sulle case poco prima dell'atterraggio, 50 le vittime. Un bambino di un anno è morto a Genzano, vicino a Roma, l'ha aggredito un mastino napoletano, ferita la nonna. Alle 18.30 si sono spente le luci, città e monumenti al buio in Italia e all'estero per la giornata di risparmio energetico. Calcio in lutto per la morte di Bulgarelli, fu la bandiera del Bologna, maglia rosso-blu 486 volte, lunedì funerali. Secondo il quotidiano Il Foglio, la giornata del risparmio energetico è l'ecologismo delle tenebre. Vi leggo una cosa, infatti, all'efficienza energetica, fare le stesse azioni spendendo meno. Benissimo. Ma Caterpillar promuove qualcosa di diverso, tagliare l'utilizzo. Caterpillar è una trasmissione radiofonica su Radio 2. Promuovono qualcosa di diverso, tagliare l'utilizzo dell'energia e anche simbolicamente invitano gli italiani a cacciare la luce da casa loro per aprire le porte al buio. Sembra innocuo, ma l'avventura umana su questo pianeta consiste proprio nella lotta contro le tenebre in tutti i sensi, concreti e figurati del termine. Sky TG24. PIL 2008 in calo, il peggiore dal 93, Berlusconi ammette siamo preoccupati. Il Partito Democratico incalza l'esecutivo, Veltroni, il governo non fa niente contro la crisi. Sciopero CGIL, 700.000 in piazza, dice il sindacato, scontro Epifani Bonanni. Napolitano e la Costituzione, per fortuna ce l'abbiamo, teniamocela stretta. Bimbo di 11 mesi aggredito e ucciso dal cane di famiglia vicino Roma. Processo Thyssen, drammatica udienza in aula, video, foto e audio shock. Gaza, tregua in bilico, raid israeliano dopo i razzi di Hamas, due morti. Stati Uniti, un aereo cade sulle case vicino Buffalo, 50 morti, tra loro una vedova dell'11 settembre. Padre a 13 anni, ecco le immagini della famiglia che ha sconvolto l'Inghilterra. Calcio in lutto, è morto Giacomo Bulgarelli, bandiera del Bologna anni 60. Bene, 800 24 00 24, moltissimi messaggi abbiamo ricevuto durante l'intervallo del giornale radio, moltissimi sms e mail sulla vicenda di Bonolis. Un'ascoltatrice da Bologna, Iris, mi scrive: probabilmente il milione di euro viene visto come scandaloso dalla maggior parte delle persone in difficoltà, perché da loro si pretende il sacrificio quotidiano, mentre ci si permette di pagare con i nostri soldi un singolo dipendente, tanto quanto è l'ottavo della cifra messa a disposizione dal governo per gli ammortizzatori sociali. La difficoltà a capire l'indignazione attuale nei confronti di questa cifra denota una scarsa sensibilità da parte sua. Un altro ancora, Enrico, mi scrive: la cosa che mi scandalizza è il fatto che lei non si scandalizzi più di tanto. Forse lei fa parte di quel mondo dorato dello spettacolo che ormai è completamente disancorato dalla realtà che ci circonda. Bonolis un milione di euro, solo due, perché non due o tre? Ironizza un altro ascoltatore. Sono un operaio metalmeccanico e guadagno molto meno di Bonolis, non mi scandalizzo assolutamente del suo stipendio, invece mi scrive Carlo. E moltissime mail di questo tipo. Risentiamo per l'ennesima volta Bonolis e un po' lo stupore del bambino che chiede a Bonolis lo stipendio. Quanto guadagna per Sanremo? Per Sanremo guadagno un milione di euro. Poco, eh? No, non è né poco né tanto, è giusto, perché ti occupi di una cosa che renderà parecchio, mi auguro, che richiede più di un anno di lavoro circa, che non è solamente condurre ma è fare la direzione artistica, quindi preparare tutto, e perché il mercato è fatto così. Il mercato è fatto così, l'invidia e l'odio di Bonolis. E poi io odio Bonolis. Ma cioè non vorrei che lei si sopravvalutasse, comunque non fa niente, va bene. Io quando vedo Bonolis lo vedo coperto, anche perché poi io... Ma perché? Che le ha fatto? Perché guadagna 20 milioni di euro all'anno. Però quanti ne fa incassare alla Molto gente? Meno di me. Ma io che ne sa? Ma lo so benissimo, vuoi confrontare me con Bonolis? No, ma non voglio fare confronto, ma si figura io. Non se ne parla neanche, quello è soporifero, fa addormentare. Ma gli hanno dato pure il festival. Ma hanno fatto male, hanno fatto malissimo. Malissimo. Ah, tra l'altro... L'invidia e l'odio naturalmente erano di sgarbi nei confronti di Bonolis, come avete ascoltato. Adesso sentiamo, per passare davvero a tutt'altro argomento, una cosa abbastanza incredibile che è accaduta a Genova. Un'inchiesta su alcuni poliziotti drogati, chiamiamoli così, da un servizio di Studio Aperto, se non sbaglio. La droga e la polizia di Genova. Con la scimmia. Venererò quello spacciatore finché vivo. Genova, 14 luglio 2007. L'addio al celibato tra amici si trasforma in un festino a base di cocaina. Intorno al tavolo ci sono quattro agenti della Polizia di Stato. Ecco cosa si dicono. Sono in astinenza. L'altra volta c'era qualcosa dentro. Mi sono girati gli occhi. L'inchiesta shock travolge la questura del capoluogo ligure. Nelle intercettazioni riportate oggi dal secolo XIX i colloqui dei poliziotti drogati. Consumano e spacciano cocaina nei giorni di malattia, ma anche durante le ore di servizio, quando nella fondina c'è una pistola carica. Stasera voglio fare una rissa della Madonna, ammazzo tutti. Cerette su tutto il corpo e teste completamente rasate per sfuggire all'esame del capello. La loro unica preoccupazione era coprirsi a vicenda. Il giorno dopo mi devo prendere festa, non posso presentarmi bruciato. In carcere sono già finite 11 persone, tra queste i poliziotti Morgan Mele e Stefano Picasso, ma si cercano altri complici. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Carlo Giovanardi, è intransigente. Questi agenti imbrattano la divisa, se le accuse saranno provate pagheranno caro. Ci sarà talmente tanta droga che non vorrei quell'altro morisse lì, e poi lo devo buttare nella spazzatura. E queste sono stralci di conversazioni tra questi poliziotti. 800 24 0024, l'ennesima polemica intorno a Studio Aperto, questa volta su una vignetta di Vauro verso la fine della trasmissione, su Gasparri. Sentite quello che è successo. Anche Gasparri chiede un minuto di silenzio, così si sentono meglio le stronzate che dico. Ha corretto, sempre leggerissimo. Ha detto che se si è offeso qualcuno, sì. Anch'io. Non ha corretto il senso, ha corretto. Se qualcuno si è offeso, lui chiede scusa. E c'era silenzio. Non voleva offendere. Hanno sentito quando ha detto anche quest'altra stronzata? Sì, sono contento. Vabbè. Questa sera perdo i pezzi, forse ho la mente un po' distratta, il cervello che va per i fatti suoi. Naturalmente la polemica riguarda anno zero e non Studio Aperto. 800 24 00 24, naturalmente Gasparri ha reagito, sono due volgari sciacalli, Santoro e Paolo, ma forse dopo lo ascolteremo. Voi credete nell'esistenza del demonio, del diavolo? Non è una cosa, una butade, è una cosa molto importante, naturalmente, che spesso riguarda la fede. Ci ha giocato su Enrico Lucci delle Iene, inseguendo Padre Amort. Padre Amort è uno degli esorcisti, forse il capo degli esorcisti della Chiesa, sentite. Ho letto che lei ha parlato della crisi economica e ha detto che c'è lo zampino del demonio. Quando c'è del male, sempre c'è il suggerimento del demonio. In Bush può esserci stato lo zampino del diavolo? Certamente c'era. C'è lo zampino del demonio su Osama Bin Laden? Oh, certamente. Nel delitto di Perugia c'è lo zampino del demonio? Sempre. A Garlasco c'è lo zampino del demonio? Ovunque c'è del male. A Cogne c'è stato lo zampino del demonio? Sempre. Sull'affare Cacà c'è stato lo zampino del demonio? Ma certamente. C'è lo zampino del diavolo nelle malattie? Anche nelle malattie. Nelle coliche renali? C'è. Padre Amort, nell'omosessualità c'è lo zampino del demonio? Altro che. C'è? Ma qui andiamo proprio contro natura. Padre Tiziano Repetto è sacerdote esorcista della diocesi di Roma. Ha scritto per Petrus, il quotidiano online sul pontificato di Benedetto XVI, un articolo su quanto è successo nei minuti precedenti la morte di Eluana Englaro. Lo leggo. Quando è entrata S, circa 60 anni, sofferente fin da ragazza, ha mostrato subito più forza del solito. Prima, da solo, riuscivo a contenerla con l'aiuto di San Michele Arcangelo. Lunedì, in due, non ci siamo riusciti. È alta poco più di 1,50 m e pesa meno di 60 kg. Ha gridato fino a spaccare i timpani e a un certo punto l'entità ha detto, sbavando e digrignando i denti: con Eluana sono intervenuto io, non riuscirete a salvarla. Erano circa le 15:30 e Luana è morta poche ore dopo, la sera. Padre Amort, nel Popolo della Libertà c'è lo zampino del demonio? Lo zampino del demonio c'è dappertutto. Anche nel Partito Democratico? Anche nel Partito Democratico c'è. Il demonio tifa per qualcuno, per esempio sulla scena politica? Tifa solo per il male. Dunque anche nelle elezioni? Anche nella votazione il demonio influisce. C'è lo zampino del diavolo. E cerca di far votare quelle persone che sono lontane da Dio. Ma mai quanto in TV. Ecco che lei c'ha questo nudismo delle donne che lei ormai lo vede dappertutto. Padre Amort non le guarda. Lei le ha viste in televisione? No. Ma delle donne nude? C'ho i miei confratelli che mi tengono aggiornati loro. Lo aggiornano i confratelli? Ma glielo dicono i suoi confratelli? Glielo dicono loro. Il demonio è sempre in agguato. C'è lo zampino del demonio in molti programmi televisivi? Altro che. Magari c'è lo zampino del demonio anche nella vicenda Bonolis. Stessa scena, racconta sempre padre Tiziano Repetto, sacerdote esorcista della diocesi di Roma. Stessa scena per R, 50 anni, posseduta a 13 anni per aver bevuto per sbaglio un filtro confezionato con ossa di defunti. Mi ha detto, scrive sempre padre Tiziano Repetto, che da una settimana non ha più le normali funzioni fisiologiche, a stento supera i 50 kg, eppure in tre non riuscivamo a tenerla ferma. Pure la sua entità, sono sette demoni maggiori, ha asserito chiaramente che per Eluana non vi era speranza. Ci stava ascoltando, giuro, non l'abbiamo chiamato noi, Adriano Pappalardo, buonasera. Buonasera Cruciani, sono sì, proprio io, e voglio dire subito, passo al nocciolo. Allora Pappalardo, di cosa ci vuole parlare? Perché ci ha chiamato? Ho chiamato prima perché seguo Radio 24 e seguo soprattutto la sua dialettica, che è straordinaria, e quindi è inutile andare i complimenti, perché ascoltando lei mi viene la voglia di fare più radio che televisione. Dunque, lo scandalo Bonolis, vorrei dire soltanto una cosa. Sono in macchina e vedo lo scandalo di persone che hanno parlato prima, per esempio del politico, non mi ricordo il nome, anche di Sgarbi. Allora dovrebbero stare tutti tranquilli, perché lo scandalo scoppia sempre quando si parla di musica. Noi viviamo in un periodo che è talmente scandalistico che stiamo vivendo uno scandalo veramente globalizzante. Anzi, devo fare un applauso a Bonolis, perché ha avuto il coraggio di dire almeno quanto prende. Il più grosso scandalo secondo me è avvenuto 2 anni fa con la signora Uzziker, che non era nessuno e prese 1 milione di euro. E credimi, lì io, Cruciani, sono stato molto male, perché almeno Bonolis è un grande professionista, Bonolis fa il direttore artistico, Bonolis si trova in un momento veramente di grossa difficoltà, perché lo sai che l'anno scorso Sanremo non ebbe grande successo, e non è vero che poi Sanremo e quindi non ha bisogno di grosse cose, però la partecipazione di uno come Bonolis lo dimostrò anni fa, dette un tocco di classe, un qualcosa in più che fece più audience, e tu sai che l'audience porta più ascolti, porta più pubblicità, eccetera. Però senti, ma quando uno che è un grosso, un grande, importante critico televisivo come Aldo Grasso scrive che il servizio pubblico in questo momento dovrebbe fare altre scelte, tu che dici? Io dico semplicemente che lui ha ragione, Aldo Grassi, perché? Perché la cosa non dovrebbe però partire soltanto oggi, perché Bonolis sta facendo Sanremo e si parla di questo scandalo. Oddio, fa più le piacere, perché magari Sanremo sarà visto di più quest'anno per questo scandalo, perché quando si fa una cosa che ha avuto una pecca nel passato si cerca sempre di ottemperare con qualche cosa che sia scandalo, anche come parlano della canzone Scandalo di Vazzanicchi. Ma lasciando stare questo, io parto da un preconcetto: noi dovremmo fare una cosa sola. Politici, non e direttori di tutto quanto, c'è gente che sta soffrendo, c'è gente che ha pochi soldi, viviamo un momento di grossissima crisi. Allora lo stesso Obama, secondo me, io che ho seguito con molta ammirazione, sono scandalizzato perché lui sta facendo dei tagli molto grossi per i suoi, diciamo, gente del partito, però quando lui è entrato nella Casa Bianca la sua festa, mi sa, il suo festeggiamento è stato superiore non so di quanti milioni di euro rispetto ai precedenti presidenti. Allora, no, Pappalardo, non andiamo troppo in là adesso con Obama, con gli Stati Uniti. Io voglio sapere se a te l'annuncio di Bonolis, sì, davanti ai bambini, di 1 milione di euro per fare direttore artistico, ti ha scandalizzato, ti sei agitato, no, pure te, oppure no? No, credimi, non mi sono né scandalizzato né agitato, ho detto semplicemente che ha avuto il coraggio intanto di dire la cifra che ha preso, e questo va fatto un applauso proprio a Bonolis, e sinceramente dovremmo guardare le tasche di altri che ne guadagnano molti di più e non si fanno, non si sanno e non si fanno sapere, per cui io ho voluto dare la mia partecipazione dicendo a te Crociani, che ti ammiro moltissimo, e a tutti quelli che ci ascoltano, non facciamo per delle grandi facile moralismo. Bravi, questo è facile moralismo, forse qualcuno, o anche lo stesso Sgarbi che dice tanto che è invidioso, tanto lui con le partecipazioni televisive da una parte e dall'altra i soldi se li sta facendo pure lui, che stia tranquillo. Ma lui dice che non li prende, non prende abbastanza, quanto dovrebbe. Va bene, ma lui ne sta facendo tante, che sono come quelle piccole mattonelle, no? Lui sta facendo tante di quelle partecipazioni che invece di occuparsi di altro dovrebbe fare altro il signore intellettuale. Invece con queste piccole partecipazioni si sta facendo una bella mattonella di cose grosse. Va bene, grazie Adriano, grazie. Buona continuazione, io sarò sempre un grande ascoltatore tuo. Grazie, buona serata. 19:39, Salvatore da Torino, buonasera. Buonasera. Intanto io anch'io mi volevo Volevo riconoscere, volevo dare onore a Bonolis di aver risposto con franchezza alla domanda della bambina. Credo che questo gli vada riconosciuto. Magari molti altri avrebbero taciuto, avrebbero svicolato la domanda. Sì, però io non lo so su questo, Salvatore, perché da una parte è vero quello che lei dice, quello che ha detto Adriano Pappalardo, però il compenso di Bonolis prima o poi sarebbe venuto fuori, non è che non sì, sarebbe però venuto però a domanda lui ha risposto con franchezza. Sì, è vero, è vero. Ecco, voglio dire, è vero, non, sì, non in quell'occasione, in quella circostanza è stato diretto. No, assolutamente, però è stato, molto diretto. Poi la cosa più importante è che ovviamente parlare di Bonolis vuol dire parlare della crisi attuale. Ora, io direi che secondo me il punto centrale è come noi utilizziamo le risorse in questo momento di crisi. Il mio giudizio, la mia opinione è che utilizzare 1 milione di euro per la conduzione di un festival canoro non è un utilizzo adeguato di queste risorse. In questo momento, secondo me, utilizzare al meglio, in maniera ottimale, per investimento, per quello che c'è bisogno, le risorse, le poche risorse che si hanno a disposizione, consentiranno poi a un paese di uscire prima dalla crisi. No, ora, però Salvatore, su questo punto io non sono sul piano dei falsi moralismi, perché se noi facciamo finta di niente, se noi facciamo finta che questo tsunami o la crisi, come la vogliamo chiamare, non sia successo, secondo me non facciamo un bene al paese. No, però mi scusi Salvatore, io su questo punto non sono d'accordo, perché non è che le cose siano tutte collegate, non è che i soldi risparmiati per Bonolis poi vengono investiti per dare magari più quattrini a quelli che perdono il lavoro, per gli ammortizzatori sociali, per lo stato sociale. Non è sì, così, non funziona così. Possiamo dire, possiamo continuare a spendere 1 milione per Sanremo, possiamo continuare a spendere. Ma possiamo continuare a spendere, lì c'è un'azienda, mi scusi Salvatore, c'è un'azienda che decide se dare o meno dei soldi a qualcuno in base ad un budget, ad un progetto, ad una spesa generale, ad un qualcosa che avviene intorno al Festival di Sanremo. Però credo l'azienda che in questo momento le aziende stanno rivedendo i budget dei propri manager, dei propri top manager, forse tutti quanti un po' stiamo guardi rivedendo. Io non so Salvatore quanti soldi sono stati dati ad altri conduttori di Sanremo, bisognerebbe fare il paragone e capire se davvero questo 1 milione di euro in rapporto agli altri conduttori di Sanremo, in rapporto anche al volume d'affari intorno a Sanremo, è qualcosa di scandaloso, tenuto conto del fatto, lei lo sa benissimo, che per prendere Bonolis e per far venire Bonolis a Sanremo i soldi bisogna cacciarli fuori. Bonolis è uno che guadagna, appunto, come ha detto prima Sgarbi, 20 milioni di euro, non so dove abbia preso questa cifra, magari non è vera, comunque è uno che ha questo tipo di contratti, lo si sa, per cui è inutile stupirsi adesso fare così le verginelle. La ringrazio Salvatore, non parlo di lei naturalmente. Sempre Torino, Luigi, buonasera. Sì, buonasera. Io dica. Volevo intervenire sempre sull'argomento Bonolis, che sinceramente non è che mi interessi molto, però visto che ne parlano tutti, parliamone. E ne parli anche lei allora, se vuole. Com'è? No, dico ne parli anche lei se vuole, se no parli d'altro. No, parlo. No, sì. Io ho sentito il suo intervento all'inizio quando diceva che lei non si scandalizza del fatto che Bonolis guadagni 1 milione di euro. No, assolutamente no. Io sinceramente un po' mi scandalizzo nella Luigi, lei ha la radio altissima, mi scusi, la può abbassare oppure la spenga, perché sì, sentiamo un ritorno fastidioso, grazie, dica. Mi sa che però è un problema del cellulare, non è... va bene, radio. Allora ci conviveremo. Ok, io volevo solo sottolineare il fatto che per me è un problema di valori. Se ci sono dei medici, ad esempio, che guadagnano 250.000 euro primari, che sappiamo bene quello che fanno, 250.000 euro l'anno, e c'è un personaggio che guadagna 1 milione di euro, ma un calciatore che guadagna 5 milioni, questo è un problema critico della società. No, non credo che sia così, Luigi, non si fanno i conti in questo modo, mi scusi, sono cose abbastanza normali, se uno pensa che un primario... non sia giusto che un primario guadagni meno di un presentatore televisivo, si dovrebbe andare a vivere in un altro mondo, forse in Unione Sovietica, dove non c'erano magari presentatori televisivi di programmi come Sanremo e più o meno gli stipendi erano tutti uguali, più o meno naturalmente. Adesso non volevo dire che lei faceva un ragionamento da stato totalitario, per carità, Luigi, però mi sembra un po' come negare l'evoluzione del mondo della comunicazione, del mercato. Non sono cose comparabili lo stipendio di un medico, di un primario, di quello che salva la vita, so che fa molto colpo parlare in questo modo, e dall'altra invece lo stipendio di uno che presenta i programmi con le ballerine eccetera. Ognuno ha la sua professionalità e quel mercato vale così, magari troppo poco, quell'altro mercato vale in un altro modo. Non capisco il discorso, però me lo spieghi meglio magari. chiedo scusa, c'è comunque, per me, lei non sarà d'accordo, una crisi di valori, perché prima per me ci sono i medici, poi c'è Bonolis o quelli che fanno un mestiere come il suo. E quindi non ci dobbiamo neanche scandalizzare se di fronte, senza tornare sull'argomento, la morte di Luana, c'è il Grande Fratello che fa gli share che fa in prima serata, perché sono i valori che sono cambiati. Sono i valori che sono cambiati, no, non lo so, può darsi, però Luigi, cosa vuole che le dica? Lei si scandalizza, io non mi scandalizzo, per quelli che si scandalizzano, ecco. Però forse nemmeno questo. C'è un ascoltatore che con uno straordinario messaggio mi dà una gioia enorme. L'esorciccio, Pappalardo, i bambini di Bonolis, devo aver sbagliato frequenza, e la Zanzara o Blob. Magari, rispondo a questo gentile ascoltatore, andiamo a Milano da Maurizio. Buonasera. Buonasera a lei, dottor Cruciani. Maurizio, che mi vuole raccontare? Niente, io volevo intervenire per la trasmissione di ieri sera sulla la legittima difesa. Sì. Io sono un agente di commercio e in 35 anni di attività ho subito la bellezza di 9 rapine, perciò posso capire, cioè riesco a capire quella persona in quello stato d'animo reagisce in un determinato modo. Che a me sono capitate rapine di tutti i tipi, mi sono trovato col fucile a canne mozze, sequestrato, picchiato, e io in quei momenti lì, se avessi potuto altro che sparare nella schiena, avrei sparato dappertutto, magari gli avrei dato anche il colpo di grazia. Lei è sicuro, È sicuro che avrebbe utilizzato un'arma, avrebbe sparato, avrebbe dato il colpo di grazia, perché una cosa è dire, una cosa è fare. Guardi, bisogna passare prima di tutto per 9 rapine. Cioè, subire diciamo quelle umiliazioni, aggressioni verbali, sparagli, parolacce, cose del genere, in quei momenti lì la lucidità si perde. Io non riesco a capire come fanno i giudici ad andare a trovare i cavilli e prendersela sempre con le persone che hanno subito e non con quelle che fanno del male al prossimo. È questo che io non riesco a capire. I giudici dietro una bella scrivania, dopo una bella settimana, vanno a guardare tra le virgole, vanno a vedere se la pistola era finta. Cosa fa? Uno deve chiedere prima se la pistola è finta, se che intenzione hai, mi vuoi spaccare la testa o no? Cioè, sono cose. Cioè, è questo che non si riesce a capire. Poi si viene a sapere che queste persone, quando vengono prese, avrebbero dovuto stare in prigione, e poi ci vengono a dire che no, voi non dovete far niente, se reagite è la società che vi deve proteggere. È questo che non riesco a capire. Come fanno i giudici a prendersela sempre con chi subisce? Ma perché lei dice prendersela? Mi scusi, io non è che voglio difendere le decisioni di alcuni magistrati. Vanno sempre a guardare le virgolette, se questo ma per è il compito della legge, guardare le virgolette è a garanzia di tutti se si guardano anche i dettagli. Non è che il giudice deve farsi interprete della volontà popolare di schiacciare come vermi quelli che fanno le rapine. Non è questo il compito del giudice. Lei può pensarla come vuole sui rapinatori, probabilmente la penso anch'io come lei, ma il compito del giudice non è quello di schiacciare le persone o di farsi interprete della volontà di giustizia che viene dal popolo. Che faccia sentire in giro è che i giudici sono sempre dalla parte di chi delinque e non da chi subisce. Questa è la realtà. Ma mi pare una generalizzazione francamente eccessiva, Maurizio, non la condivido. Guardi che se facciamo un sondaggio il 90% la pensa come le sto dicendo. Lo so, ho capito, la penserà così, a parte che non credo che sia così, ma se anche dovesse uscire fuori questa cosa penso che sia sbagliata, una cosa sbagliata, una considerazione sbagliata. I giudici sempre dalla parte dei delinquenti mi sembra un po' troppo. Magari in alcuni casi hanno utilizzato dei criteri troppo morbidi, non hanno, sono stati troppo lassisti. Può darsi che ci sia un tipo di cultura di questo tipo, ma dalla parte dei delinquenti mi sembra, e invece colpiscono chi si difende, questo mi sembra francamente troppo. La ringrazio. Alessandro da Forlì, buonasera. Buonasera, signor Cruciani. Io intervenivo in merito all'intervista di Lucci delle Iene al capo esorcista della Chiesa Cattolica. E volevo chiederle questo, se lei dal suo punto di osservazione mi sa dire che ora è la fine del mondo, perché qua non ci siamo più. Mi spieghi anche lei, sennò siamo a livello anche qua dell'esorciccio. Sì, perché qua non ci siamo più, perché parlare di demoni, indemoniati. Però mi scusi, ci sono delle persone che ci credono, per cui dov'è il punto? Naturalmente noi ci giochiamo sopra, ci divertiamo, ironizziamo. Lucci insegue Padre Amort, sì, parla del diavolo e del demonio che è ovunque, in ogni cosa, e lo prende in giro chiaramente. Sì, però padre Hamilton non se ne accorge nemmeno perché non gliene importa. L'ha tirato dentro una spirale di domande, l'ultima è stata sugli omosessuali per fargli dire che erano degli indemoniati. Va bene, lì l'intervista era un po' guidata a risposta predeterminata, però parlare di demonio, siamo nel 2009, mi cascano le braccia, insomma, questo volevo dire. Beh, Alessandro, guardi, ci sono persone che ci credono e ci credono fortemente al fatto che in molte storie c'è l'azione diretta del demonio. Sempre padre Tiziano Repetto scrive: i protagonisti della storia di Luana hanno compiuto la loro opera con l'azione diretta del demonio. Questi fenomeni, cioè le persone che hanno anticipato il fatto che Luana non aveva più speranza, sono tipici dei demoni. A noi esorcisti è fatto divieto espresso di porre domande riguardanti questioni di attualità e simili, ma qui il demonio ha parlato di sua spontanea volontà. Ha predetto il futuro perché lui stesso era protagonista di tale evento, come ha peraltro ammesso orgogliosamente. Padre Amort, lei quando è che lo incontra il diavolo? Nelle persone possedute dal demonio. Come ci parla? Come ci parla Padre Amort? Così, normalmente. Ah, proprio così, da tu per tu col demonio? Con Padre Amort lo interrogo. Ricostruiamo la scena. Lei mi fa vedere il gesto proprio come fa? Così lo facciamo così. Vedere. Sono indemoniato! Noti però, lei fa una voce deformata. Ah, se no la fa normale? Normalmente una voce normale, magari un po' tipo più rauca. Così, ma... così Padre Amort, va bene? Questa persona è mia, questa persona è mia, me ne sono appropriato. Me l'hanno data. Me l'hanno data, non me l'ha data. Me l'ha data. Me la porto con me all'inferno. Così fa Padre Amort il diavolo? Sì. Bene o male? Il demonio continua a dire: no, non me ne vado. No, non me ne vado. No, voce no, normale. No, non me ne vado. Io gli chiedo: quando uscirai da sta persona per ordine di Cristo? No, non voglio mai uscire. Mai. Mai. Non uscirà mai. Mai. Non uscirò mai. Quindi l'urlo, quello lì, è così. No. Fa un urlo. Un urlo, direi. Un urlo urlo. E il demonio disse: la morte di Eluana è opera mia, non riuscirete a salvarla. Padre Tiziano Repetto, sacerdote esorcista della diocesi di Roma, Vincenzo da Cosenza, buonasera. Buonasera Cruciani, complimenti innanzitutto per la trasmissione. Tre considerazioni molto. Lei crede al demonio? Lei crede al demonio? Lei crede al demonio? All'azione diretta del demonio? Una domanda seria, Vincenzo, non è uno scherzo, è una domanda seria. Crede al demonio oppure no? In relazione al fatto che se c'è un bene deve esserci anche la sua nemesi. Credo all'esistenza dei contrari, quindi relativamente se uno crede che esiste il bene deve esistere anche il male. Ma bisogna credere, bisogna essere credenti per credere anche al demonio oppure no? Credo di sì, perché il demonio è un'iconografia cristiana, anche se è presente in altre religioni, però diciamo qui in Italia è prettamente cristiana. La vedo preparata, Vincenzo, sono contento. Grazie. Di cosa voleva parlarmi, a parte il demonio, ma allora, sono stato io a sprugnarla sul demonio? Allora, uno del caso Bonolis, perché sinceramente mi diverte tantissimo pensare a tutte queste persone che si sono sollevati per questo scandalo. Vorrei ricordare che sia l'attuale premier che il suo contralter, ossia Walter Veltroni, hanno fatto un'intera campagna elettorale contralter, è bellissimo il suo, che ha detto lei, che espressione ha utilizzato, il suo contralter, bellissimo, un misto italiano francese, il suo contraltare. Esiste contralter? No, è una sua invenzione, sì, personale. Contraltaire, è scritto in francese. Ah sì, così, contralter, così, stupendo, sì. Non lo sapevo. No, ma non lo sto prendendo in giro, Vincenzo, in serio, sono ammirato. Allora, hanno fatto un'intera campagna elettorale su due argomenti cardine su cui hanno strepitato e su cui forse erano veramente d'accordo e avrebbero potuto fare subito nel primo mese di governo, ossia tagliare le province, i parlamentari e soprattutto gli stipendi e i benefit ai parlamentari. Questo a me sembra il vero scandalo. Bravo Vincenzo, lei ha detto la cosa giusta. Queste interrogazioni parlamentari di una parte della politica che si scandalizza per milioni di euro a Bonolis sono veramente... Questo cose è quello assurde. Che a me dà fastidio da cittadino, che se mio padre dice che questa settimana a casa si mangia la carne solo tre volte, io so che lui ha già rinunciato a due delle tre volte. Cioè, non può chi dovrebbe davvero dare l'esempio straparlare in questo caso e parlare degli altri. Bonolis è un lavoratore che lavora per i fatti suoi. Se c'è qualcuno che gli offre un contratto di 1 milione di euro, non vedo perché debba rinunciare. Ma loro possono davvero ridurre il loro stipendio in quanto parlamentari e in quanto legislatori? A me sembra questo il grandissimo assolutamente scandalo. Secondo argomento che voleva... Secondo argomento, Gasparri, sempre per il fatto che io dico un po' di buona, sana lezione di autoironia prima di entrare in Parlamento, gliela potrebbero fare a qualcuno. Perché effettivamente io la vignetta ieri l'ho vista e mi sono sbellicato dalle risate, ma perché effettivamente aveva detto, si potrebbe usare un termine maggiore, una baggianata. La detta grossa, è stato richiamato dal Presidente della Camera, che non è certo un cretino. Cioè, poteva evitare adesso di fare questa sparata, gonfiando ancora di più quella che in fondo era una battuta bella, simpatica. La terza cosa è, Cruciani, spero che lei possa fare da cassa di megafono, da calabrese, volevo ricordarle che qui sta succedendo il finimondo. Oggi è nevicato a Cosenza, si sono verificati blocchi e frane su tutte le strade del circondario, si sono verificate altre due frane sulla Salerno-Reggio Calabria, tra Vibo e Pizzo e tra Reggio. Cioè, noi siamo veramente dimenticati dal mondo. Sì, lo d'accordo, Stato, Vincenzo, però sì, questo è vero, però non è che ce la possiamo prendere col maltempo, è che poi le strade sono fatte in un certo modo, eccetera, eccetera. Alle 21 minuto andiamo a sentire i titoli del TG5. CGIL in piazza contro la politica economica del governo, scontro Epifani Bonanni, il PIL scende dello 0,9%, il governo crisi preoccupante, massimo impegno. Il capo dello Stato, in Italia abbiamo la Costituzione, teniamocela stretta, il Premier bene Napolitano e la sinistra che l'ha cambiata è male. Leader in campo in Sardegna per gli ultimi appelli al voto, Veltroni per Soru, Berlusconi a fianco di Cappellacci. Tragedia a Buffalo, negli Stati Uniti, un aereo di linea precipita su una casa, 50 vittime, terribile incendio a terra, tra i morti anche un abitante dell'edificio. In provincia di Roma, un bimbo di un anno muore dopo l'aggressione del suo mastino napoletano, ferita anche la nonna nel tentativo di salvarlo, genitori sotto shock. Arrestato per corruzione l'ex procuratore capo di Pinerolo per un giro di consulenze a professionisti e amici, fu lui a condurre le inchieste sul calcio scommesse negli anni 80. Vigilia di San Valentino tra fiori e SMS, l'innamoramento, spiega Alberoni, è esplosivo e si torna a corteggiare. Antonello Venditti, ecco il segreto delle mie canzoni d'amore. Mi sembra di aver visto Berlusconi su Sky TG24, sentiamo. Ma questa è un'interpretazione controversa, occorre chiarire. Ho detto bene, se sarà necessario chiariremo. A me non sembra che sia necessario chiarire. Costituzione. Credo che sia un'intervista di Berlusconi a Sky TG24, mi sembrava seduto e posato da intervista, in cui se c'è stato qualcuno, dice Berlusconi, che ha cambiato la Costituzione, questa è la sinistra quando ha modificato il famoso articolo 5 della Costituzione sul federalismo. TG1, titoli. A Roma, vertice del G7, il PIL scende ai livelli del 93, Berlusconi, crisi preoccupante, il presidente della Banca Mondiale Zoellick al TG1. Napolitano, teniamoci stretta la Costituzione, il Premier d'accordo, ma è la sinistra a cambiarla male. Veltroni, il governo sottovaluta la crisi. Accordo governo-regioni, 8 miliardi per i lavoratori in crisi, a Roma metalmeccanici impiegati, CGIL al comizio di Epifani. 50 morti negli Stati Uniti, aereo cade sulle case nei pressi delle cascate del Niagara, era partito da Newark. Bimbo di 10 mesi sbranato e ucciso a Roma dal mastino napoletano di casa, che poi ha azzannato e ferito anche la nonna. Si veste da cuore gigante per riconquistare la ragazza, in mille modi per dire ti amo, il vostro San Valentino sul sito del TG1. Bene, la 7, sentiamo ancora. Nell'ultimo trimestre 2008 l'Istat calcola un calo del 2,6% del prodotto interno lordo. Berlusconi confessa, la crisi mi preoccupa. Da governo e regioni arrivano 8 miliardi di euro per gli ammortizzatori sociali. Roma invasa dalla protesta della CGIL. Due giorni dopo il voto politico che divide Israele, a Gaza torna il conflitto. Hamas annuncia disponibilità al cessate il fuoco, ma il lancio di missili Qassam continua. L'esercito risponde con un raid aereo, 2 morti e 3 feriti. Bimbo di 10 mesi azzannato e ucciso dal cane di famiglia, un mastino napoletano, è accaduto a Genzano, nei Castelli Romani. L'animale ha aggredito il piccolo nel giardino, la nonna ferita mentre tenta di salvarlo. E infine il calcio, in lutto per la morte di Giacomo Bulgarelli, grande regista del Bologna e della Nazionale anni 60, gentiluomo in campo e fuori, aveva 68 anni, dopo il ritiro è stato commentatore televisivo dai microfoni di Telemonte Carlo. Bene, nei titoli della 7 800 24 00 24, Francesco da Messina, Mauro da Verona, Tito da Ferrara, Giovanni da Teramo e Mario da Verona. Chi avevamo per primo? Andiamo a Ferrara, Tito. Sì, buonasera dottore, buonasera a lei. Dica. Mi sente? Sì, niente, senti, io... La sento. Sì. Beh, innanzitutto volevo dire, secondo me il fatto che Bonolis abbia rivelato il suo guadagno a una bambina, quindi forma marketing secondo me per far discutere di lui, non è stata una gran mossa, come si dice così, sia pubblicitaria anche come diciamo professionalità. Quindi poi se poi alla fine noi scopriamo che per fare il direttore artistico uno guadagna delle vecchie lire 2 miliardi, mi sembra un prezzo esagerato, come sono poi tante piccole cose che in Italia insomma si esagera, tipo il calcio, una situazione varia, no? E quindi mi sono permesso di fare questo appunto, poi anche di sentire e di conoscere anche lei, visto che io vi seguo tutti i giorni e condivido la vostra trasmissione. Cosa vuole sapere poi, da me? Ma io da lei, guardi, una cosa, le voglio fare una domanda proprio perché è importantissima. Io sì, non mi schiero né di destra né di sinistra perché non mi piace parlare di politica, ma la cosa del quale io e amici miei e anche tante persone che conosco ci chiediamo sempre la stessa cosa tutti i giorni: ma come mai questo governo, questa politica o questo sistema italiano non crea la soluzione dei problemi nel senso di delinquenza e cose varie? Cioè la domanda ancora più semplice, in modo che tutti quanti che stanno ascoltando possono capire, ma perché allora la giustizia non mette in atto diciamo qualcosa in modo da poter sopperire tutte quelle malvagità e tutte quelle situazioni, o meglio punire? Guardi Tito, non è che si elimina la criminalità così con la bacchetta magica. È evidente che non si possono avere i posti di blocco, la polizia ad ogni angolo di strada. Sicuramente lei si riferisce sicuramente alla sentenza che c'è stata a Milano. Ci sono diversi pareri oggi sui giornali a proposito di questa sentenza. Per esempio, dei giudici dicono che la libertà di sparare ci porterà al Far West e che questa sentenza è stata un errore perché nella nostra società si sta diffondendo, leggo sulla stampa, la volontà di consentire reazioni non proporzionate alla minaccia. Adesso io credo che queste posizioni siano un errore, come quelle di chi chiede invece maggiore severità da parte dei magistrati. Non è che i magistrati sono interpreti della volontà popolare. Ma abbiamo in linea Maurizio Gasparri, che è il presidente dei senatori del PDL. Buonasera Gasparri. Buonasera. Eccoci qui. Senta Gasparri, io faccio ascoltare, ma tanto lei l'ha già sentito, faccio riascoltare quello che è avvenuto ieri sera verso la conclusione della trasmissione Anno Zero. Sentiamo. Anche Gasparri chiede un minuto di silenzio, così si sentono meglio le stronzate che dico. È corretto. Sempre leggerissimo. Ha detto che se si è offeso qualcuno... Anch'io. Non ha corretto il senso, ha corretto. Se qualcuno si è offeso, lui chiede scusa. C'era però silenzio. Non voleva offendere. Hanno sentito quando ha detto anche quest'altra stronzata? Sì, beh, sono contento. Vabbè. Lei se l'è presa molto, Gasparri, per queste cose, o no? Trovato veramente di pessimo gusto il compiacimento dei conduttori e del presunto comico, l'applauso del pubblico, ovviamente tutto sempre ovviamente orientato e selezionato in maniera conforme agli orientamenti dei conduttori, mischiare sia in quella vignetta che in un'altra su Alfano vicende drammatiche che il paese ha vissuto con una intensa partecipazione, pensandola in un modo o in un altro, perché siamo stati di fronte a una tragedia, comunque la si voglia giudicare. Quindi mischiare il minuto di silenzio, che in genere, no, lei sa bene, si fa per ricordare una persona che scompare, a questo si riferiva, con altri aspetti, mi è sembrato veramente un atto di sciacallaggio. Dopodiché la satira è satira, io vengo tranquillamente preso in giro, imitato, ed è noto che non ho assolutamente mai criticato, anzi ho ringraziato imitatori e quant'altro. Qui mischiare il dramma della vita e della morte con questo compiacimento l'ho trovato sciacallesco, perché fissano una vignetta con una cosa su altre cose, nel minuto di silenzio mischiare, le ripeto, la drammatica vicenda che insomma il paese ha vissuto con tutti, insomma, dai familiari di Ivan Englaro a quelli che hanno auspicato un epilogo diverso, insomma, non è stata una vicenda, no? Leggera. No, lei dunque se diciamo, è rimasto più colpito per l'utilizzo di una vignetta. sulla vicenda Englaro piuttosto della frase le stronzate che dico. Ma quello, guardi, cioè, se uno lo fa in un altro contesto, ne erano fatte anche di peggiori di vignette, come dire, no, non è che io abbia... Sì, no, certamente, certamente. Va via la linea con Gasparri che è in macchina, appena atterrato. Bene, 20:12, andiamo a Verona. Mauro, buonasera. Buonasera, buonasera a lei, intanto un piacere parlare con lei. Io la stavo ascoltando e ascoltavo anche le varie disquisizioni, insomma, sul compenso di Bonolis, eccetera. Bene, io sono, devo dire che ho un po' di esperienza dal punto di vista sanremese, ce l'ho. Dobbiamo tornare indietro un 23 anni, cioè? Vale a dire il 1986, e quando sul palco del teatro Ariston il sottoscritto insieme ad altri due conduttori dell'allora programma musicale Disco Ring affiancavamo Loretta Goggi nella conduzione di quell'edizione 86 del Festival di Sanremo per dare fantastico. Una sensazione... Mauro Micheloni, fantastico. Avevo molti più capelli ovviamente allora di oggi e qualche chilo in meno, e quindi Carlo era l'anno in cui vinse Adesso tu di Ramazzotti e arrivò secondo il clarinetto di Arbore. Ecco, io sorrido per due motivi: primo, perché non mi sembra che Bonolis sia anche abbastanza adeguato al momento di crisi, visto che due anni fa la Uzzi che era preso 1 milione di lire e nemmeno era una presentatrice, era un milione di euro e non era nemmeno una conduttrice, era la spalla del conduttore, sì. Quindi il fatto che un conduttore del calibro di Bonolis poi naturalmente prenda quello che ha preso due anni fa la Uzzi, che mi sembra un ridimensionamento. Il mio lapsus non è casuale, perché anch'io posso vantarmi non nel palmarès artistico la presentazione di un Sanremo, ma anche di aver preso 1.200.000 lire. Ecco, glielo stavo chiedendo Mauro, lei quanto ha preso all'epoca per la co-conduzione in tre, diciamo, però la spalla della Goggi insieme ad un altro qua. Diciamo che la Goggi aveva affidato noi tutta la parte musicale, essendo certo, noi tra virgolette, certo, insomma, gli esperti. Allora non erano 5 serate, erano 3. E sì, abbiamo preso come contratto 1.200.000 lire lordi, sui quali abbiamo pagato le tasse, abbiamo pagato le spese per andare a Sanremo, eccetera. Quindi io ci ho rimesso una valanga dei soldi. Dico, no, Mauro, mi dovrebbe fare il conto di che cosa, ma lo facciamo fare a qualche altro esperto. A cosa corrispondono, no, ma guarda, adesso glielo risolvo io. 1.200.000 lire nell'86 equivalevano, sì, più o meno a 3 mesi di stipendio di un impiegato, di un operaio. Allora gli stipendi, sì, erano intorno alle 400.000 lire. Quindi se noi rapportassimo gli cachet di allora ad oggi, vorrebbe dire che per esempio Laurenti, che è il co-conduttore insieme a Bonolis, dovrebbe prendere 3 mensilità di 3 operai. Quindi insomma diamogli un 1.500 euro, che è già tanto. Ecco, dovrebbe prendere di 5 sere 3.000, 6.000, 7.500 euro. Non credo che sia ovviamente la stessa cosa, però insomma allora c'era anche un altro discorso, c'era il grande Gianni Ravera che era il patron di Sanremo e lui, certo, diceva, amava ripetere: Sanremo è un onore per tutti e quindi chi vi partecipa deve sentirlo prima di tutto un onore. Se non vi va bene, se non siete contenti del cachet, quella è la porta, ce ne sono 200.000 pronti a far botte per entrare e presentarlo loro. Beh, altri tempi, Mauro. Deve essersi rotto qualcosa, sì. Beh, tempi che sono cambiati, per cui non ho capito, lei no, tutta questa discussione intorno allo stipendio di Bonolis come la considera? Una cosa ipocrita? La considero assolutamente inutile, insomma. Credo che Cacà prenda, giocando a pallone al mese, credo, non vorrei sbagliarmi, 3 o 4 milioni di euro, e voglio dire, sono tutti lì che urlano quando gioca a pallone, Beckham uguale, Bonolis. Beh, per fortuna non sono soldi dello Stato, però non sono soldi. No, certamente no, ma il Sanremo negli ultimi anni ha vissuto, diciamo, delle edizioni non sempre esaltanti, nonostante Baudo, sì, che è un'icona, insomma, ha segnato un po' il passo. Certo. E l'edizione di Sanremo di qualche anno fa è stata forse l'unica a dare un po' di vigore al Sanremo. C'era bisogno di ancora vigore, lui ha puntualmente portato delle grandi novità, tant'è che con la scusa di questi super big che accompagnano le nuove proposte, noi avremo quest'anno a Sanremo una valanga di cantanti famosi, sì, come negli ultimi anni, decenni, non li abbiamo mai visti, magari non in gara. ma comunque ci sono. Ecco, io su questo non so quanto, non so in realtà quanto sia utile a Sanremo tutto questo ingaggio di star, e poi là i conti bisognerebbe farli per davvero in questo caso sulle star, non tanto sul milione di euro di Bonolis, almeno secondo me. Allora Gaspari, lei ci ha detto prima che ha considerato quello di Santoro e Vauro un atto di sciacallaggio, no? Però uno potrebbe dire, in fin dei conti si è trattato di un piccolo siparietto di 30 secondi in finale di trasmissione, soprattutto su una vignetta, e Vauro ha detto cose ben peggiori. Dov'è il punto? Ho espresso la mia opinione, loro fanno la loro vignetta, uno esprime l'opinione, non ho capito qual è il punto. No, no, certo, è legittimo. C'è un paese libero, l'articolo 21 della Costituzione vale per Vauro e Santoro, vale anche per me. Trovo di pessimo gusto e da sciacalli mischiare la critica anche feroce a una persona a un evento drammatico della vita del paese, perché il riferimento al mondo di silenzio si riferisce alla morte di Roana Englaro, e le mie espressioni sono definite delle stronzate, e questo, se ci fosse un contesto semplicemente satirico, sarebbe normale. Abbinato a un fatto drammatico che viene richiamato dal minuto di raccoglimento, a mio avviso è un fatto da sciacalli. Che le devo dire? Scusi, ma io volevo da lei una. La satira è un'altra cosa. Ma io non mettevo in discussione il suo diritto di esprimersi su questa cosa, per carità. Lo fanno, dico che c'è. Poi Santoro e compagni poi sollevano dubbi e polemiche da decenni su molti aspetti, voglio dire, no? E io su questo ho le mie opinioni, ma secondo me quel tipo di modo di approcciare un tema così serio e drammatico è un modo da sciagliarli. Ho capito benissimo. Poi la domanda è questa, Gaspari: secondo lei quel momento lì in realtà è un momento di satira oppure no? Oppure il pretesto no, per. No, questa è una vecchia discussione. La satira è anche uno strumento di risoluzione del potere, della politica, della vita pubblica, dei comportamenti sociali, dei tempi dell'antichità e dei giorni nostri. In questo caso mischia un fatto drammatico con un accostamento che trovo di pessimo gusto. Poi la satira è una questione irrisolta. Le faccio un esempio: a volte sono stati dei presunti satiri che hanno fatto programmi seri. Quando Travaglio presentò il suo libro, tra virgolette, serio, nel programma, tra virgolette, satirico di Luttazzi, era satira o era politica? Non era andato a raccontare le barzellette, si ricorda quel famoso episodio certo, del 2001? Era andato un giornalista, tra virgolette, serio, a presentare un libro, tra virgolette, serio, in un programma satirico. Si disse, ma c'era un attacco alla satira? No, quella era una cosa di polemica in assenza, in un programma della televisione pubblica e della controparte, quindi come dire, poi è difficile. Senta, nel suo comunicato, nella sua nota su questa vicenda, c'è scritto a un certo punto: colpa di gestori della Rai che per fortuna stanno per essere cacciati come meritano. Il direttore generale che sta per cambiare, come si rinnoverà il consiglio di amministrazione, da tempo è scaduto il direttore generale, che non è un buon direttore generale, sul piano della gestione finanziaria, sul piano delle garanzie del pluralismo, e quindi sarà cambiato il direttore generale. Ma questo e lei pensa che dovrebbe cambiare qualcosa anche per quello che riguarda Anno Zero? Io penso che si debba garantire il pluralismo e una misura nella critica. Su Anno Zero, guardi, io non devo giudicare io Anno Zero, è stato condannato, Santoro ha avuto 3 multe dall'autorità delle comunicazioni, che questo paese è un'autorità sovraordinata alla politica, che è custode di una serie di valutazioni. Come lei sa, recentemente, per la terza volta, in questo caso Anno Zero, le altre volte erano altri programmi di Santoro, è stata condannata la RAI, cioè Santoro, perché poi la multa, la sanzione riguarda l'emittente, per offese al capo dello Stato fatte da Grillo nel corso della trasmissione di Santoro. Quindi come si comporta Santoro mica lo decido io, lo valuta l'autorità delle comunicazioni. Per me è un militante politico di una parte avversa alla mia, che lo definisco tale perché è stato, come le sa, candidato alle elezioni, deputato europeo, certo. Quindi è una persona che è un militante politico, ha la fortuna di poter fare televisione in piena autonomia, in diretta sulla RAI, ed è un militante politico che fa televisione, perché ripeto, quando si candida in una lista fa una scelta politica nel pieno diritto del cittadino, ma poi non può pretendere di essere considerato, come posso dire, al di sopra delle parti, giusto? Super partes. Intanto dopo la sua nota nella rubrica VAF, che è valutazioni a freddo, è ricomparsa la vignetta. Le voglio fare una domanda al di là di questa vicenda di Bono, fa la rubrica VAF, insomma, dire abbastanza. Al di là di questa rubrica, di questa vicenda di Santoro, Gaspari, un 30 secondi. Anche lei pensa, come molti ascoltatori, come Aldo Grasso sul Corriere della Sera, che 1 milione di euro a Bonolis sia esagerato? Guardi, di questi tempi è chiaro che bisogna sottolineare che sia esagerato. Poi c'è la vecchia logica, nel mondo dello sport e dello spettacolo, vi risponderebbero Bonolis o altri, quanto frutta la presenza di quel calciatore in uno stadio, quanto frutta la presenza di quella star, se poi ci sono spettatori, se poi c'è la pubblicità intorno all'evento. Quindi io credo che poi sia il mercato a determinare questi valori, però un po' di sobrietà sarebbe consigliabile, non c'è dubbio. Mi auguro che chi paga questi soldi sia, ho fatto l'accostamento dei calciatori con un altro settore ad alto tasso di polemica, mi auguro che chi versa questi soldi ne guadagni poi di più e quindi possa dire ho pagato molto, ma il pubblico che ha visto era tanto, la pubblicità mi ha fruttato tanto e quindi è stato un buon investimento. Come uno che allestisce uno spettacolo con un grande cantante, lo paga molto, se poi il pubblico corre in massa e paga il biglietto e il saldo è attivo, ha ragione l'impresario. Però lei non si scandalizza? No, non mi scandalizzo in assoluto se i proventi sono adeguati, non so se è chiaro il concetto. Sì, no, sì, no, è chiaro, è chiaro. Io organizzo il concerto di Uto Ughi e lo pago, Uto Ughi ha un grande valore, quindi faccio una citazione, se poi non viene il pubblico ho sgravizzato Mario Levento. Però detto questo io sono per una maggiore sobrietà, le ho detto prima, insomma, no? Sì. È ovvio che giudicare col parametro, come dire, della crisi economica è giusto, come fanno molti. Ma questo vale per tutti, quindi io sarei favorevole a una maggiore sobrietà in questi campi. Penso ai grandi manager bancari, molte volte si parla della politica, non noi politici siamo considerati una casta, ma lei ha visto il banchiere Modiano, è stato allontanato dalla banca perché non era capace, no? Banca Intesa, gli hanno dato 3 milioni e 600 mila euro così di buona uscita, poi ha trovato subito una nuova collocazione, quindi nel frattempo ha ricominciato a guadagnare. Beh, meno male. Con questi grandi manager anche, quindi non voglio che si parli solo di Bonolis dovrebbe essere compensato di meno, ma anche quel grande banchiere che non era così grande se l'hanno allontanato perché ha preso 3 milioni e 600 mila euro. Lei sa che in America c'è una polemica su tutti quelli che ha Wall Street, però questi sono fatti di Banca Intesa, mentre quello di Bonolis è un fatto che riguarda le tasche pubbliche, insomma, no? Ma io gli ho detto che la Rai risponderà di queste cose, nel senso che se quelle serate avranno un grande successo di pubblico e la pubblicità frutterà un guadagno importante, la Rai, ci sarà un bilancio anche di questa cosa, quindi la potremo giudicare meglio dopo. Solo alla fine, solo alla fine. Sono di Banca Intesa, è uno schifo che abbia preso 3 milioni e 600 mila euro Modiano, perché in un momento in cui le banche hanno, insomma, avuto, non Banca Intesa, ma tante banche, problemi seri, dovrebbero dare l'esempio. Io glielo dico anche per quei consiglieri della Corte dei Conti che prendono un sacco di soldi per gli arbitrati. Noi abbiamo votato l'altro giorno al Senato il dimezzamento dei compensi per quelli che fanno gli arbitrati. Lei sa che negli arbitrati, per le opere pubbliche, per tutta una serie di attività, ci sono spesso esponenti del Consiglio di Stato, della Corte, che prendono milioni e milioni di euro. Io ho proposto al governo, che ha condiviso, di dimezzare questi compensi, perché poi spesso si parla dei politici e basta, critichi il politico che se non altro espone in pubblico i dati, le dichiarazioni dei redditi. Poi molte volte non sappiamo quanto guadagna Bonolis, quanto guadagna Modiano, quanto guadagna il consigliere di Stato che fa l'arbitrato. Va bene, Bonolis ha risposto peraltro in maniera, mi sembra, anche abbastanza trasparente a una domanda di un bambino. Senatore Gaspari, la ringrazio, buona serata. Andiamo a Francesco da Messina, poi Mario da Verona. Francesco, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Purtroppo nell'attesa sono stato bruciato con tanti argomenti che volevo affrontare, quindi non voglio ripetere. Me ne evochi uno. Ma sono d'accordissimo con lei sul fatto del vero scandalo di Sanremo, sono gli ospiti e gli cantanti stranieri che vengono a promuovere le loro opere così, pagati, quando dovrebbe essere. Sì, però Francesco, forse ha una qualche ragione, ce l'ha anche il senatore Gaspari quando dice che bisogna fare i conti solo alla fine, insomma c'è un progetto complessivo che riguarda introiti, poi uno può criticare il festival o può criticare queste cose in linea di principio. Però bisogna vedere. Non lo critico in linea di principio. Io mi ricordo ancora Travolta, ha fatto il cretino 10 minuti e non so quanto ha preso. E il sudore di Tyson, che ancora penso lo debbano asciugare, che sudava come un bufalo. E che cosa ha dato al festival non lo so. No, ma lei ha ragione, Francesco. Però anche queste cose sono modi per attrarre pubblico. Certamente. Da questo punto di vista, negli ultimi anni un po' di sobrietà c'è stata anche nella scelta delle persone, nel cachet da dare a queste persone. Poi adesso è esploso questo nuovo caso Bonolis perché qualcuno in pubblico ha avuto anche un po' il coraggio di dire mi danno 1 milione di euro. La ringrazio, andiamo a Verona da Mario. Eccoci qui, Mario. Sì, buonasera. Dica. Senta, io ho quasi l'impressione che quotidianamente i nostri politici devono dimostrare che il livello veramente è bassissimo. Io ho sentito l'inizio di trasmissione, l'intervento del parlamentare che ha posto un'interrogazione sullo stipendio di Bonolis. È già di per sé una roba, io la ritengo assurda, con tutti i problemi gravi che abbiamo oggi in Italia, crisi economica, posti di lavoro, andare a porre una questione del genere, ma poi mi ha ancora di più scandalizzato la motivazione, perché lui dice che in un momento di crisi, io vorrei ricordare al suo ospite di prima, che il contratto Bonolis non l'ha firmato adesso, l'ha firmato circa un anno fa, se non vado errato. Sì, è vero anche questo. Ecco, poi mi permetta un'altra roba, se posso. Sì. La cosa strana è che mi piacerebbe sapere quanti politici abbiano fatto delle interrogazioni sulla vicenda dei poliziotti che facevano uso di stupefacenti. Andiamo a sentire il titolo del TG2, poi tutti gli ascoltatori che sono in linea già da diverso tempo, ci siamo dilungati un po' troppo con il senatore Gasparri, però Mario da Verona, Giovanni da Teramo, Ettore da Pisa, Giovanni provincia di Firenze, Paolo da Bologna, TG2. A Roma il vertice del G7, le ricette contro la crisi, frena l'economia in Europa, in Italia un calo dello 0,9%, 8 miliardi di aiuti per i lavoratori, compresi i precari. Berlusconi in Sardegna per sostenere Cappellacci e attacca lo sport preferito della sinistra e il tirassegno sul Presidente del Consiglio. Hanno fatto danni alla Costituzione. In Sardegna per sostenere la candidatura di Soru, Veltroni attacca il governo, si dice preoccupato ma non fa nulla contro la crisi. In piazza Metalmeccanici e dipendenti pubblici CGIL. Muore sbranato dal suo cane un bambino di 10 mesi a Genzano, vicino a Roma, aggredito sul passeggino nel giardino di casa, ferita la nonna. La festa di San Valentino, l'innamoramento ai tempi di Facebook, consigli per non farsi del male e poi i baci più famosi della storia del cinema. Bene, erano i titoli del TG2 alle 20.35, andiamo a sentire subito Mario da Verona per la conclusione del suo intervento. Dica Mario. Volevo concludere, mi fa piacere che avete avuto Gasparri perché mi sarebbe piaciuto porgli una domanda. Perché subito dopo la morte di Eluana il senatore aveva lanciato delle accuse abbastanza pesanti, lasciando intendere quasi che la morte della ragazza fosse stata affrettata. Mi piacerebbe che adesso che è stato accertato che la morte è avvenuta per cause naturali, diciamo, cioè che non è stato. Ecco, mi piacerebbe che il senatore perlomeno porgesse a qualcuno delle scuse. Perché anche quella là non ritengo che sia un modo corretto di far politica. Grazie. No, assolutamente Mario, ma Gasparri le avrebbe risposto, è per questo che io in realtà dovrei cancellare la presenza dei politici, a meno che non ci sia qualcosa di scherzoso, non ci si possa giocare un po' qui alla zanzara, ogni tanto però ci consentiamo, ci permettiamo di invitare qualche politico su una delle polemiche, aveva invitato anche Vauro, ma non è voluto venire da noi per rispondere su questa cosa qui. Le avrebbe risposto Gasparri? Beh, io ho pensato così perché in quel momento pensavo per davvero che morire dopo 48 ore dall'inizio del distacco del sondino è una cosa poco credibile. E comunque io sono un parlamentare, dunque esprimo delle opinioni e delle idee politiche. È così. Giovanni da Teramo. Salve, buonasera. Volevo intervenire con riferimento a Bonolis, a questa polemica su Bonolis, che francamente non condivido. Questa volta sono d'accordo con lei, secondo me sono altre le cose che fanno atterrire in momenti di crisi piuttosto che non la retribuzione, lo stipendio che viene dato a una persona che comunque sulle scene dello spettacolo italiano da tempo e secondo me anche fa un buon lavoro, perlomeno le volte che l'ho visto. Quello che mi guardi, fa invece... un ascoltatore mi dice lavoro in pubblicità, posso dirle che non è uno scandalo e che non sono soldi dello Stato, una telepromozione a Sanremo costa più di 1.600.000 euro. Gabriele, un altro cosa dice Gasparri, Modiano è bravissimo, tutti i dipendenti lo rimpiangono ancora. Stefano da Brescia, perché Gasparri era scandalizzato per la buonuscita di Modiano da Banca Intesa, ma io ha fatto il paragone con altre cose, ma mi sembra innanzitutto non sono soldi pubblici, per cui non capisco il punto. Voleva aggiungere qualcosa Giovanni? Sì, solo una cosa, perché in realtà sono molto più inferocito sul fatto che per mesi, ogni mattina, quando sentivo il radiogiornale di Radio 24, sentivo che l'Italia perdeva 2 milioni di euro al giorno, e questa è una cosa che poi alla fin fine purtroppo pagherò io come contribuente, così certo. I concittadini. Quindi magari se invece di arrabbiarsi per queste facezie ci arrabbiassimo per delle cose che ci toccano tutti in modo più concreto, forse qualcosa di meglio ci sarebbe. Sarebbe meglio. Grazie. Ettore da Pisa, buonasera. Buonasera Cruciani. Sì, abbassi la radio, spenga, se no la sentiamo due volte. Dunque io volevo intervenire proprio sul compenso di Cruciani, di Bonolis. Per sfortuna non ho lo stesso compenso. No, certo. Non ci siamo scandalizzati, ci siamo scandalizzati poco quando il presidente dell'Alitalia è stato liquidato, dove ha portato l'Alitalia al disastro con milioni di euro. Il delegato Cimoli. Abbiamo esempi clamorosi, per cui posso capire che in questi momenti di crisi, dove molte persone non arrivano a fine mese, parlare di un compenso di un milione di euro a un personaggio come Bonolis, che è un ottimo professionista, può essere diciamo scandaloso, quantomeno suscitare delle vive polemiche, però mi devo pensare che non è questo la questione del problema. Il problema è che si vive a tutti i livelli si vive al di sopra delle nostre possibilità, e questo è un esempio classico. Cioè siamo in un momento di crisi, un compenso di milioni di euro, per quanto meritato, perché Bonolis è un professionista perfetto, è una cosa che può suscitare scandalo, e questo in questi momenti quantomeno evitiamo di farlo sapere, evitiamo di farlo sapere. Io invece non sono d'accordo, è giusto che soprattutto quando paga lo Stato ci sia trasparenza. La ringrazio Ettore, andiamo veloce con gli altri ascoltatori perché dobbiamo concludere. Paolo da Bologna, dica Paolo. Sì, allora due cose brevi. La prima considerazione è che i politici quando intervengono tolgono qualcosa alla sua trasmissione anziché aggiungere. Lei ha ragione Paolo, che vuole fare? A un certo punto è partito per la tangente con un discorso, o uno litiga e dice no scusi Gaspari non c'entra niente. Ma lo dico per il bene della trasmissione, non li faccia intervenire perché davvero irrita me. Guardi, per esempio all'inizio della trasmissione quel parlamentare dell'MPA che ha presentato un'interrogazione su Bonolis, con cui abbiamo giocato, insomma con che è stato anche un po' divertente, ogni tanto va bene, non no, è detto. Ma in qualità di cittadino sì, in qualità di politico no, in qualità di cittadino se uno vuole scherzare va benissimo, ma in qualità di politico no, secondo me. La seconda cosa su Bonolis è questa, sì. Va bene tutto, però la giusta misura ci deve essere, e soprattutto se si parla di servizio pubblico, visto che io pago un canone, a questo punto sì, io vorrei anche scegliere qualche volta, altro sarebbe se la RAI facesse pagare tutti quelli che vogliono vedere Sanremo, visto che io devo pagare un canone, e purtroppo succede che si potrebbe anche pensare di avere il diritto di dire la propria opinione, e non so se è giusto, però se la RAI non ho capito non Paolo, va bene un milione di euro per Bonolis oppure no? Ma non è quello il punto, è che se e allora qual è il punto? È che se io pago il canone, sì, voglio anche scegliere, voglio anche avere l'opportunità di dire perché cosa pago di sapere perché cosa pago il canone, tutto qua. È tutto lì. Ho capito, ma non è che si può fare un referendum, su Bonolis sì e Bonolis no, mi perdoni Paolo. Non ho capito se va bene il milione di euro per Bonolis oppure lei lo considera uno scandalo, mi spieghi? Glielo spiego, non è il problema di uno scandalo un milione di euro o no, nessuno può dire se è giusto o no, secondo me. Il problema è che se la RAI è un'azienda di mercato, che lo faccia to court, che non mi chieda il canone se è un'azienda di mercato. Ok, ho capito benissimo, la ringrazio. Cioè lei trova il canone incompatibile con un milione di euro a Bonolis, ecco, per fare un esempio. Giovanni dalla provincia di Firenze, per concludere, 30 secondi al massimo, Giovanni, al massimo. Buonasera, la mia posizione su Bonolis è bravissimo, perché in un ambiente preconfezionato è riuscito a strappare un milione di euro, però secondo me sostituisce il mito dell'artista carismatico col mito dei soldi facili. Cioè la gente che guarda Sanremo, guardiamo questo che è riuscito a prendere un milione, e poi soprattutto è stato molto bravo a far parlare di sé ogni giorno, guarda anche questa volta con la storia di un milione di euro fa parlare di sé, quindi bravissimo, è una persona che io stimo perché fa molta beneficenza. Va bene Giovanni, 30 secondi sono conclusi, mi dispiace interromperla, magari la richiamiamo, troppa dietrologia però secondo me. 20:43, ci sentiamo lunedì 18:30, ciao. La Zanzara.